La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati amici al nostro weekend al cinema qui su Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisi. La nostra ora di cinema prevede come sempre tutta l'attualità cinematografica, tutte le novità in un video, varie amenità legate al grande schermo. È una settimana con numerose uscite, quasi una decina di film nuovi arrivano in sala, non tutti meritevoli di lode. Noi abbiamo selezionato come sempre i film sui quali c'è sicuramente più interesse. Parleremo anche di una rivista che compie 1000 numeri, è un compleanno importante. Insomma, però andiamo a sentire tutti quelli che sono i contenuti della puntata nei titoli di testa. Edgar Allan Poe sulle tracce di un assassino che miete le sue vittime seguendo gli schemi dei racconti del grande scrittore americano. È la trama di The Raven con John Cusack nei cinema italiani. 17 adolescenti di un liceo francese, incinte, tutte insieme. È la ribellione di un gruppo di adolescenti raccontata nel film 17 ragazze, ispirato a una storia vera accaduta in America e stroncato dalla censura italiana che lo vieta ai minori di 14 anni. Tornare a casa un giorno qualunque e scoprire che tuo figlio è una pornostar. È quel che accade a Luciana Littizzetto e Rocco Papaleo, protagonisti di È nata una star, il nuovo film di Lucio Pellegrini. Buon compleanno, Film TV. Il settimanale di cinema in televisione compie 1000 numeri in edicola. Un'occasione per parlare con il direttore Aldo Fittante di com'è cambiato il cinema in questi 20 anni e di quali sono le giovani star su cui puntare per il futuro. Ho bisogno di soldi. Scrivi un altro racconto come Il cuore rivelatore. La gente ama il sangue, ama il macabro. Se riuscissi ancora a scrivere un racconto come Il cuore rivelatore o Il pozzo e il pendolo, non credi che venderei subito l'anima al diavolo? Harry pubblica la mia recensione, sono disperato. Senti, a me servono delle storie, appassionanti racconti. Non ho più inventiva. Il meccanismo si è inceppato. Allora piantala con gli alcolici e le tinture, ti fanno marcire il cervello. E questo è un dialogo di The Raven, il film con il quale vogliamo cominciare la nostra carrellata settimanale. The Raven, diretto da James McTeague, con John Cusack, protagonista assoluto, nei panni niente meno che di Edgar Allan Poe, del grande, grandissimo maestro e capostipite del thriller horror letterario americano, che è proprio il protagonista con il suo personaggio, ma anche con le sue storie, di questo film, di questo thriller che non si vena quasi mai di horror, ma che rimane saldamente nell'ambito appunto del thriller, film con Luke Evans, Alice Eve e anche Brendan Gleeson, che appunto è nei panni del poliziotto, dell'ispettore che aiuterà il nostro a venire a capo di una situazione piuttosto intricata. Siamo nel 1849, molto dei fatti accaduti della vita reale di Edgar Allan Poe si mischia con la fantasia in questo film. Il film comincia proprio con Edgar Allan Poe, con la premessa che Edgar Allan Poe è stato trovato morto a Baltimora per cause che sono sempre state misteriose, e allora il film cerca di ricollegarle appunto a questa trama. 1849, dicevamo, Baltimora, Edgar Allan Poe, nonostante qualche successo letterario e una certa fama, soprattutto negli ambienti underground della cittadina americana portuale, vive però di stenti, è proprio messo male, va nei locali, nei bar mezzo ubriaco, cerca di elemosinare bevute a destra e a sinistra, insomma, non se la cava tanto bene. Tra l'altro, come avete sentito nel dialogo, anche al giornale non sono più soddisfattissimi di lui, gli chiedono nuovi racconti, qualcosa a cui attingere, qualcosa che sia veramente ispirato come nei tempi precedenti. Parallelamente, Edgar Allan Poe vive il suo grande amore con la giovane e ricca figlia di un militare in pensione, Emily. Il militare in pensione non ne vuole minimamente sapere dello scrittore, e quindi insomma una vita abbastanza difficile su tutti i fronti, potremmo dire. Serve l'ispirazione che dia spazio sul giornale, spazio che diventi popolarità, popolarità che diventi successo e che quindi avvicini ulteriormente, diminuisca il gap con la famiglia di lei. Tutto questo però avviene nella maniera più macabra e più legata, se vogliamo, a quello che è poi il tema e l'ambiente dei romanzi di Edgar Allan Poe e dei suoi racconti, ovvero al crimine. Nella città di Baltimora stanno avendo crimini efferati quanto inesplicabili. La polizia, come si suol dire, brancola nel buio, non riesce più di tanto a venirne a capo, ma l'incontro con l'ispettore che se ne occupa, l'ispettore Fields, sarà per Edgar Allan Poe l'inizio della riscossa. Mi volete arrestare? Sono l'investigatore Fields, prego. Si accomodi, signor Poe. Ah, il famigerato investigatore Fields. Sono in arresto? No, per adesso no. Preferirei stare in piedi, facilita la fuga. Io sono un lettore dei suoi racconti. Beh, ammetto che molti dei miei ammiratori fanno di tutto per incontrarmi. Non ho detto di essere un suo ammiratore. Le mie storie non le piacciono. L'altra notte una giovane e sua madre sono state assassinate. Il corpo della ragazza è infilato in un camino, la testa della madre è recisa con la lama di un rasoio. L'assassino è fuggito da una finestra con un meccanismo a molla celato da un chiodo tagliato a metà. Questi particolari le rammentano qualcosa, signor Poe? Lei parla di uno dei miei racconti, di un'opera di fantasia. Macabro duplice omicidio. Temo che non sia così. L'ispettore Fields ha riconosciuto nelle scene degli omicidi alcuni racconti, alcuni dettagli narrati da Allan Poe nel racconto I delitti della Rue Morgue, e per questo decide di coinvolgerlo nelle indagini. Si comincerà una sorta di gara, di gatto col topo, perché mentre l'assassino continua a uccidere e lo fa secondo le modalità appunto narrate da Poe, Poe continua a scrivere, ritrova l'ispirazione, ma lo fa praticamente sotto tortura, anche perché nel frattempo viene rapita la sua bella Emily, e questo diventerà l'altra grande sfida che dovrà lanciare in una mortale duello con l'assassino, lo scrittore. Un film di genere, thriller, dicevamo saldamente thriller, dove la cosa migliore sono davvero alcuni dialoghi, alcuni momenti, ottima e solida la sceneggiatura, un buon John Cusack nei panni del protagonista, un film per tutti gli appassionati del genere e anche della grande letteratura di Edgar Allan Poe. La rosa purpurea. Prendiamo un appartamento immenso. Chiediamo l'emancipazione fuori dalle palle, educatori e assistenti sociali. Non faremo come i nostri genitori. Credi di essere furba, ma sei solo stupida. E questo è un po' un sunto, potrebbe essere una premessa di questo film di cui stiamo per parlarvi. 17 ragazze, è arrivato in Italia, tra l'altro annunciato e preceduto soprattutto da un battage pubblicitario volontario o involontario, perché poi c'è stata anche tutta la questione della censura. Il film è stato vietato in Italia in maniera folle, un film che racconta, lo ricordiamo, ispirato tra l'altro a una storia realmente accaduta in una piccola città francese sull'Atlantico. 17 ragazze dello stesso liceo prendono una decisione clamorosa, quella di rimanere incinta tutte insieme, con uno spirito, una finalità per quanto adolescenziale sicuramente politica, sicuramente di ribellione, e questo è un fatto che è accaduto. Il film racconta questo fatto. In Italia arriva il divieto perché, udite udite, potrebbe essere di cattivo esempio, e quindi dall'indomani ci troveremo lì pieni di licei con 10-15 ragazze che si fanno mettere incinta da sole. Non ho parole per come dire, derubricare questo intervento della censura. Ho parole e linee da dare al nostro Boris Sollazzo invece per parlare del film e per capire, come nello spirito della rosa purpurea, se ne vale o non ne vale la pena esclusivamente in termini cinematografici. Boris, buongiorno. Allora, per la precisione, intanto buongiorno, chiaramente, per la precisione è stato censurato per via della scena di guida pericolosa, di fumo, di marijuana e infine genericamente di comportamenti irresponsabili, quindi sostanzialmente potete stare sicuri che d'ora in poi più o meno tutti quanti i film che vedrete saranno vietati ai 14 anni, se bisogna essere insomma in qualche modo coerenti con questa motivazione, perché di comportamenti responsabili è fatto il cinema, altrimenti sarebbe molto molto noioso. Detto questo, 17 ragazze secondo me è un film delizioso, veramente interessante, con queste due sorelle registe che hanno deciso di raccontare questa storia americana, perché la storia è successa in Massachusetts. Ovviamente loro non sanno più di quello che hanno visto su un trafiletto, cioè di questa gravidanza contemporanea di 17 ragazze e quello che hanno costruito lo hanno costruito loro. Intanto rassicuro tutti, in nessuno dei 20 paesi in cui è stato proiettato c'è stato un aumento della natalità, potete stare tranquilli, e in particolare tra le donne adolescenti. Il film secondo me è interessantissimo perché racconta una sorta di femminismo post-ideologico, una sorta di riappropriamento del corpo nella maniera più sentimentale, potente e anche dolce che si può fare. Lo si fa però con le dinamiche puramente adolescenziali di una commedia non solo di genere ma di generazione. Commedia, diciamo, melodramma, ecco, come un melodramma. Un finale molto interessante, delle giovani attrici, in alcuni casi molto molto brave. Se ha un difetto, forse, ecco, è averle scelte troppo belle e aver fatto una sorta di situazione lombrosiana per cui i personaggi negativi sono un po' più brutti. Quella è stata una, come dire, debolezza che forse ci si poteva risparmiare. Ma per il resto, secondo me, è uno dei film più interessanti dell'anno, assolutamente. Anche per, come dicevi tu giustamente, per la connotazione politica ma non ideologica che si porta dietro in una maniera assolutamente molto originale ed atipica. Essere incinte insieme, saremmo libere, felici, autonome, tutti ci rispetterebbero, così resteremo sempre insieme. Incredibile, Florence è incinta. No, cosa? Siamo due. Dimmi chi è stato! Cinque ragazze incinte, bisogna fare qualcosa. Ah, no, no, no, no, ci vuole un test per ogni volta. 12. È il tuo gruppo che te l'ha messo in testa. E Camille soprattutto, con le sue idee. A quanto ci risulta, tutt'oggi siamo a 15. Vuole espellere Camille e Fourier? Se questo può far paura alle altre, posso farlo. E allora, questo era 17 ragazze nei cinema italiani, pur col divieto ai minori di 14 anni, insomma, sì, magari non so quanto perderà il film con questo divieto, certo che è veramente una follia. Andiamo avanti col gioco, però Boris rimane con noi, fra poco dobbiamo parlare di un altro film molto, molto interessante. Andiamo avanti col gioco, piccola premessa, questa settimana giochiamo con un'edizione che dire di lusso è poco del film di cui parliamo e che vi proponiamo, quindi insomma... Molta attenzione, pronti sulla tastiera, la rosa purpurea, @radio24.it, dovete dirci come sempre di che film si tratta, avrete tre possibilità per indovinarlo, ma si tratta di una, non solo di questo film, ma come ripeto di un'edizione davvero straordinaria. Ascoltiamo la prima clip. Non erano un po' strani? Lei ha paura per te. Perché? Perché sei qui con me, tutta sola. Vuoi dire che sa chi sei tu? Ha dei sospetti. La rosa purpurea @radio24.it, vi ripeto ancora il nostro indirizzo di posta elettronica, inserite come sempre il vostro indirizzo per agevolare le spedizioni, più tardi ci saranno altre due possibilità. E allora, siamo al terzo film della nostra carrellata odierna, un film che ha fatto molto parlare di sé nei festival, ha avuto grande, grande visibilità e anche grandi, grandi critiche, il suo titolo originale è Un cuento cino, in Italia esce con il titolo di Cosa piove dal cielo? Punto di domanda, quindi un interrogativo. Storia di un ferramenta, di un proprietario di un negozio di ferramenta che dopo un dramma che lo ha segnato in maniera profonda da quasi 20 anni evita qualsiasi contatto con il mondo, ma il contatto si profila, guarda caso, anche alle latitudini del Sud America con... Jun, un cinese che è appena arrivato in Argentina senza conoscere mezza parola di spagnolo, e chiaramente quello che ne viene fuori è il rapporto fra questo ferramenta Roberto e questo ragazzo cinese che diventa il suo assistente nel negozio, diventa un rapporto ovviamente di incomunicabilità che però comunica attraverso l'umanità, attraverso le anime e non attraverso le parole. Questo per dire in sunto di cosa tratta il film di Sebastian Borenstein. Boris Sollazzo, un film che ha avuto, come dicevo, grande eco nei festival. Io prima però di sentire il tuo parere voglio far ascoltare una clip dal trailer. No, non capisco una parola, carino, no. Sali, sali macchina, sali macchina. Sali, cazzo, sali! Gli sta parlando in cinese, come non lo capisce? Io parlo cantonese, lui parla mandarino, è lingua differente. Porca puttana. Poca puttana, capile! È un cinese che parla solo cinese. Hai preso un aiutante. È un cinese che sta qui da una settimana. Ti sei preso un commesso? No, no, no. un cinese. Sì, lo vedo. Mettilo in regola. Risolviamo la faccenda una volta per tutte. Per il bene di tutti e due. Boris, cinema argentino che regala molto spesso delle piccole perle, anche in questo caso una perla più intimista, diciamo, ma grande capacità di raccontare in questo film. Ma il cinema argentino è sempre in salute, direi, perché ha comunque dei registi, secondo me, molto solidi anche nella narrazione. In quanto Chino, Cosa piove dal cielo, secondo me è la dimostrazione di come un cinema classico e una narrazione semplice e diretta hanno sempre la sua efficacia, hanno sempre la loro efficacia, perché se vogliamo fare un esempio irriverente, un Quento Chino è in miniatura quello che è stato Gran Torino, cioè l'incontro da due mondi completamente diversi e apparentemente inconciliabili, perché Roberto, il protagonista, è una sorta di Scrooge, uno che quasi autistico nel portare avanti le sue giornate, piena di una routine anche buffa, penso che una dei suoi hobby, forse l'unico, è cercare notizie improbabili sui quotidiani, e alcune sono veramente meravigliose. Trova questo ragazzino cinese con cui è impossibile comunicare e si rende conto che però per la prima volta c'è qualcuno che comunica davvero con lui. Nulla di nuovo davvero nel cinema, pensate anche a Ugo Cabré, insomma è qualcosa che periodicamente vediamo. Qui però abbiamo un grandissimo attore che è Ricardo Darín, che è sicuramente il miglior attore della sua generazione in Argentina e probabilmente in tutto il Sud America, e mi allargherei anche più in là. E dall'altra parte una felicità nella regia, sia a livello visivo e narrativo, che aiuta il film a trovare quel registro leggero ma anche sensibile che lo fa uscire fuori dalla banalità di un genere e di un'impostazione che abbiamo visto varie volte. In qualche modo è vero che è un film sudamericano, ma sicuramente quell'impostazione è un po' all'americana, nel senso però migliore del termine, quindi io mi sento di sposare sia la giuria di Roma, che lo premiò come miglior film, sia chi comunque l'ha recensito bene, perché è un film davvero piacevolissimo. Ed è un film che poi ha tutto il suo immaginario, il côté, diciamo, surreale, tipico del cinema argentino, proprio forse in queste notizie strane, strampalate, di cui il protagonista Roberto fa collezione. Boris, grazie allora per essere stato con noi, per averci raccontato questi film. Ci risentiamo la prossima settimana. Alla prossima settimana. E prima di dare la linea alla regia, diamo un'occhiata invece al box office dello scorso weekend, perché era il weekend dell'esordio di magnifica presenza di Ferzan Özpetek, che non ce l'ha fatta a balzare in testa alla classifica, ma è entrato al secondo posto con un incasso nel weekend di 1.193.000 euro. Al primo posto ha incassato ancora nel weekend, più di tutti, Quasi amici, Untouchable, che è davvero il film rivelazione dell'anno. A questo punto siamo arrivati a 8 milioni di incasso alla fine della scorsa settimana, più dobbiamo aggiungere quello che è maturato nel frattempo. Terzo posto per un altro film che sta avendo un ottimo risultato, quello di Carlo Verdore, Posti in piedi paradiso, 8 milioni superati globali, e esordio, devo dire, sopra le mie aspettative per L'altra faccia del diavolo, l'horror esorcistico di cui abbiamo parlato settimana scorsa, che ha esordito ancora sopra il milione di euro nel weekend. Quinto posto e flop anche in Italia per John Carter, il colossal Disney da 250 milioni di dollari. Pensate che in settimana la Disney ha annunciato una possibile perdita su questo film di 200 milioni di dollari, fiscalità compresa, a livello mondiale. E certo che con un paio di colpi così, diciamo, la Disney non chiude, ma forse il comparto della fiction, del live action, che è non animazione, diciamo, qualche colpetto, qualche contraccolpo potrebbe riceverlo. La Rosa Purpurea. Di nuovo insieme, eccoci qua, La Rosa Purpurea, la terza parte del nostro programma. Dicevamo, abbiamo un film italiano ancora di cui parlare. Un film che ha, come dicevo prima, ambizioni importanti a livello di classifica, diretto da Lucio Pellegrini, il cast principale formato da Luciana Littizzetto e Rocco Papaleo protagonisti, poi ci sono altri attori anche di grande livello come Michela Cescon per esempio, e poi abbiamo anche il Castellitto Junior, Pietro Castellitto, nei panni del figlio di questa coppia. Dicevo, film che ha ambizioni, che nasce da un libro, da un romanzo breve di Nick Hornby, da cui sono stati tratti Febbre a 90, Alta Fedeltà, About a Boy, insomma uno scrittore prolifico. Questo libro è di più di qualche anno fa, fino adesso non era diventato film. Sono riusciti a prendere i diritti appunto i produttori italiani e l'hanno affidato a Littizzetto Papaleo, nei panni di due genitori che scoprono che il figlio è una pornostar, o che meglio, ha girato un film porno come protagonista. Guarda qua. Cos'è? È un DVD. Chi te l'ha dato? Manuela. Capisco anche perché. C'è questo che è uguale a Marco. Uguale. Mi hai fatto vedere? Fausto, quello è Marco. In che senso? Nel senso che è Marco, tuo figlio. In questo film? E cosa fa? E che fa uno in un film porno? Cosa fa? Perché? E perché? Chiedilo a lui perché, no? Fausto, guarda, dovresti vederlo. No, Lucia, lo hai guardato tu. Credimi, lo dovresti vedere. No, Lucia, io queste cose non le guardo. Io adesso lo metto su e te lo... No, lo voglio vedere. Fausto, nostro figlio ha il coso più grande che io abbia mai visto. E allora, avete sentito la dichiarazione di Luciana Littizzetto? Madre preoccupata... Perché improvvisamente questo figlio si dimostra essere una cosa che loro certo non si aspettavano. Siamo in una non meglio precisata, ma molto riconoscibile Torino, ma nel film non è un luogo fisico, ma comunque in una periferia urbana. Una mattina arriva la vicina di casa, infila questo DVD nella buca della lettera, la mamma, appunto, Luciana Littizzetto, lo guarda con un certo sconvolgimento e poi cerca appunto di coinvolgere il padre, Rocco Papaleo, nel capire cosa sta succedendo. Seguiranno chiarimenti, come si suol dire, il ragazzo verrà interrogato, gli si chiederà, come dire, conto di questo suo film, di questa sua nuova carriera che si sta forse aprendo. Il ragazzo con grandissima tranquillità non sembra accusare più di tanto il colpo e cerca di giustificarsi così. Che altro talento ho io, mamma? Il mondo è pieno di gente che fa soldi con le sue doti naturali. Così quando Andrea mi ha chiesto di fare questa cosa, ho pensato, ma alla fine che differenza c'è tra avere il coso che ho io e saper suonare il piano, per esempio? Che differenza c'è? Cioè, davvero non capisci che differenza c'è? No. Ma avere un pisello grosso non è un talento, Marco. Suonare il pianoforte è un talento. Oh. Imparare a suonare il pianoforte è dura. La cosa che hai tu, ma mica è dura. Oh! E poi vorrei sapere, la gente e gli altri, che piacere ne ricavano? Tu sei uno scherzo della natura, Marco! Ecco, questa è la reazione di un Rocco Papaleo che è totalmente fuori di sé, ma non più per lo spaesamento. Corre nelle edicole a comprare questo film, cerca di farlo sparire dalla circolazione, ma in maniera abbastanza rocambolesca invece lo metterà sempre davanti agli occhi degli altri. Il racconto di Nick Hornby aveva la forza della brevità, aveva la forza della fulmineità. Ci si calava come in una doccia scozzese dentro questa situazione che arriva di colpo e che finiva di colpo, anche se quello che veniva raccontato era una sorta di elaborazione del lutto, possiamo dire così, anche se ovviamente di lutto non trattasi, ma insomma, questo è il discorso. I genitori la prendevano un po' così, salvo poi durante l'evoluzione, la maturazione dell'idea e il fatto di recepire poi che tutto sommato, insomma, il figlio di malissimo non aveva fatto nulla, nonostante poi tutta una serie di remore, la corruzione che sta dietro il mondo della pornografia, anche se questo era uno di quei filmati amatoriali, non che lui avesse queste ambizioni, anche se poi vedrete nel film forse tutto sommato non le abbandonerà, ma la cosa buffa invece era quella del rapporto fra madre e padre, come attraverso l'elaborazione di questa storia riscoprano in un certo senso anche se stessi, si spoglino di determinate certezze per ritornare ad essere più vicini forse di quello che erano prima. Bravo nel suo ruolo allampanato Pietro Castellitto, giusto per questo film. bravi ma forse non del tutto giusti Luciana Littizzetto e Rocco Papaleo, a mio modo di vedere troppo caratteristi per un ruolo come questo a tutto tondo, un po' più universale, che forse avrebbe voluto una gamma attoriale, e ripeto, non parlo di bravura, parlo di quanto si è adatti poi a un certo ruolo, forse avrebbe voluto, dicevo, una gamma attoriale vagamente diversa. Film che ha alcuni momenti di pausa, ma che regala anche parecchie risate e che tutto sommato si vede appunto con un sorriso sulle labbra. Questo è nata una star, punto di domanda, nei cinema italiani da questo fine settimana. Bene, allora giochiamo insieme con la seconda traccia dello splendido Blu-ray Game di oggi. Non tornano per il momento, è stata attaccata da un virus. Vogliono aspettare che stia meglio prima di riprendere il viaggio. Lei è malata. Ha detto di non preoccuparmi, ma sembrava, non lo so, diversa. Edizione davvero straordinaria di questo film in palio questa settimana. La Rosa Purpurea @radio24.it, più tardi l'ultima possibilità. Bene, allora adesso, come annunciato anche in apertura di trasmissione, parliamo di un compleanno davvero speciale, perché coi tempi che corrono, già arrivare a 100 uscite per una rivista di cinema è tanto, figuratevi arrivare a 1000, ed è quello che è capitato proprio questa settimana, col numero che è ancora attualmente in edicola fino a lunedì prossimo, al settimanale Film TV, che come tutti i nostri amici più affezionati sanno, è tra l'altro anche nostro partner qui alla Rosa Purpurea. Abbiamo, come sempre, tutte le settimane, avremo anche oggi, fra poco, le segnalazioni dei film da vedere in televisione, ma stavolta Film TV compie 1000 settimane di vita, che equivalgono più o meno a 20 anni. E siccome io c'ero quella volta lì che ideammo Film TV, modestamente, in quel piccolo periodo in cui la rivista diventò da tedesca a italiana e fu creata per l'Italia, facevo parte di quella giovane redazione, e siccome oggi a dirigere quella redazione c'è un grande amico, oltre che un grande critico cinematografico come Aldo Fittante, abbiamo detto, facciamoci sti auguri, perché tutto sommato ne vale davvero la pena. Un saluto ad Aldo Fittante in collegamento qui con noi alla Rosa Purpurea. Ciao a tutti e grazie per le tue parole. Aldo, 1000 numeri, certo non sono tutti tuoi, tu sei stato forse il quarto o il quinto direttore della storia di Film TV, quindi sei quello però che li deve celebrare, però è ACP che è un risultato davvero straordinario. Sì, direi proprio di sì. 1000 numeri, 20 anni di vita, il primo numero uscì infatti il 26 di gennaio del 1993, 20 anni, insomma, sembrava, era un'epoca diversa, tant'è vero che poi all'interno del numero, che è uscito martedì 20 e come giustamente hai detto tu rimarrà nell'edicola fino a lunedì prossimo, abbiamo cercato di fare un po' il punto di questi 20 anni, no? Cioè, a partire dalle tecnologie, insomma, da come è cambiata la nostra vita nel quotidiano, c'erano ancora i VHS, molti non avevano ancora il cellulare, non c'era internet, non c'erano le mail, eccetera eccetera, quindi poi da lì siamo partiti per questa cavalcata per dare un'occhiata a che cosa è successo in questi quattro lustri. In questi quattro lustri, Aldo, si è spesso detto che un certo modo di vivere il cinema, che forse era ancora vivo e attivo 20 anni fa, stava morendo, stava finendo o stava, nella migliore delle ipotesi, cambiando, però era un cambiamento che non avrebbe lasciato sul terreno solamente rose e fiori. Insomma, com'è cambiato il cinema, il modo di fruirlo 20 anni dopo? Ti senti ancora ottimista? Ti senti ancora, come dire, di rispondere a chi dice che quel tipo di cinema lì non esiste più, che invece forse da qualche parte esiste ancora? Ma guarda, io da quando sono un appassionato di cinema, cioè quindi insomma praticamente da sempre, ho 51 anni, quindi se togliamo i primi 10-12, diciamo, ecco, sono tanti anni, 40 anni di passione, sento dire che il cinema è morto, che è in crisi, eccetera. In realtà non è mai stato così vivo, cambiano i modi di fruirlo, ecco, questo sì, è un cambiamento epocale, c'è stato proprio in questi 20 anni, insomma, nel senso che tutto quello che noi sentivamo proprio insieme, ti ricordi quando andavamo ai festival, ai convegni, eccetera, si è puntualmente verificato, nel senso che oggi davvero la possibilità di avere un rapporto proprio personalissimo con un'opera cinematografica è attualissimo, insomma, nel senso che uno si può scaricare i film, li può vedere nei telefonini, li può vedere in mille modi diversi, insomma. Certo, i puristi, i romantici della vecchia sala hanno storto il naso, però che i tempi cambiano e quindi questa è la realtà, però io credo che il cinema sia vivo, vivissimo, tant'è vero che nel mondo ci sono migliaia di festival, I film fanno tendenza, cambiano, condizionano il costume, moda. Basta vedere cosa è successo quest'anno per The Artist, no? Il rilancio del muto, di un'epoca, di un modo di vestire, di pensare e di porsi. Quindi no, io direi che il cinema probabilmente non morirà mai, però è cambiato radicalmente il modo di approcciarlo, quello sì. Aldo, abbiamo il tempo solo per due fulminanti nomi, diciamo così, e magari brevissime motivazioni, perché voi in questo numero avete anche fatto una sorta di elenco dei 10 attori da seguire per il futuro. Ora, alcuni sono già molto affermati, come per esempio Ryan Gosling, ma se ci devi dare un paio di nomi che scopriremo presto, quali ci dai? Ma guarda, io punterei moltissimo su Evan Rachel Wood, perché l'ho vista sia nel film con Mia Turk che vinse a Venezia 2-3 anni fa, no, Wrestler, e sia nel film di Clooney, Lady di Marzo. È giovanissima, l'ho trovata un'attrice già molto matura, sono convinto che nel giro di 2-3 anni vincerà l'Oscar ed è probabilmente destinata a diventare l'attrice americana più brava delle prossime stagioni. E poi senz'altro quella che ha fatto il remake americano di Millennium, Rooney Mara, che anche lei che si era già imposta l'anno scorso con Social Network e che praticamente al primo film importante da protagonista ha preso subito la nomination. Quindi questi due nomi senz'altro ne risentiremo parlare. Per l'Italia Isabella Aragonese, abbiamo scelto una così della sua generazione, perché ci sembra l'attrice forse che ha anche più margini di miglioramento, insomma. Grazie allora Aldo Fittante, buon compleanno Fin TV. Grazie a voi e buon weekend a tutti. La Rosa Purpurea. Ancora insieme alla Rosa Purpurea, abbiamo finito con il direttore di Film TV, ricominciamo con Film TV e con le segnalazioni dei film da vedere in televisione con la redazione del settimanale di cinema. C'è con noi Giulio San Giorgio. Ciao Giulio. Ciao Franco e bentornati con le nostre segnalazioni. Abbiamo fatto una scelta oggi, quella di parlare di un film in particolare e poi di una sorta di ciclo, di mini ciclo che Rai Movie dedica a un grande come Billy Wilder. Cominciamo con il film Straziami, ma di baci saziami. Parliamo veramente della migliore commedia italiana con Dino Risi. Esattamente, su Iris alle 13:10 di martedì, una divertentissima e acuta rivisitazione del feuilleton ottocentesco da parte di alcuni dei nomi fondamentali della nostra commedia dei tempi d'oro. Dino Risi alla regia, Nino Manfredi, un Tognazzi sordomuto che pare Harpo Marx, e la sceneggiatura di Agi e Scarpelli che delineano in chiave rurale e grottesca il linguaggio della cultura popolare, le cadenze del fotoromanzo, i sentimenti da canzonetta sanremese, omaggiandoli e deformandoli in una storia d'amore ostacolato sui versi di Mogol, un classico davvero imperdibile. E quindi il film Straziami ma di baci saziami va in onda martedì 27 marzo su Iris alle 13:10, come sempre digitale terrestre in chiaro e quindi senza dover spendere una lira, così come su Rai Movie e quindi in chiaro, ma nel corso del prosieguo della settimana, un grande ciclo dedicato, non grandissimo, però i film sono tanti, dedicato a Billy Wilder. Esattamente a 10 anni dalla scomparsa, Rai Movie dedica al genio di Wilder una serata e poi uno spazio notturno. Le danze commemorative si aprono martedì 27, che è proprio l'anniversario, con la sua opera più famosa, Qualcuno piace caldo, con Curtis Lemon e Marilyn Monroe in una ronda tra travestitismo e desideri, e proseguono con il romanzo d'amore di Irma la Dolce, quello che è probabilmente il paradigma del noir classico, che è La fiamma del peccato. Poi il viaggio continua nell'arte di Wilder, e continua con da mercoledì a sabato a mezzanotte circa con un film al giorno, quindi Non per soldi ma per denaro, L'appartamento, Giorni perduti e Scandalo internazionale, tutti titoli ovviamente imperdibili anche questi. E allora questo è il ciclo Billy Wilder su Rai Movie, settimana molto intensa la prossima a partire da martedì 27 marzo. Grazie a Giulio San Giorgio di Film TV. Grazie a te Franco, alla prossima settimana con le nostre segnalazioni. Ebbene, questo per quanto riguarda allora i film da vedere in televisione. Siamo arrivati alla terza e conclusiva traccia del nostro Super Blu-ray Game di oggi. Nessuno di loro è più padrone di se stesso ormai. E la cosa più assurda è che un gene li spinge ad esserne felici. Se avessi l'imprinting, finalmente riusciresti a dimenticare Ben. Imprinting, a sto punto è quasi svelata. La Rosa Purpurea, @radio24.it, vostro indirizzo, mi raccomando, per accelerare le operazioni di spedizione. Settimana scorsa avevamo giocato col Blu-ray di questo capolavoro. Senti, salgo a prendere il cane. Vuoi aspettare? Devo farlo uscire. O hai freddo o qualcosa del genere? No, ti aspetto. Che razza di cane hai? La peggiore. Davvero? È un bassotto. Ah. Sai, è un sostitutivo del pene per me. Oh, nel tuo caso avrei pensato ad un alano. Grande Woody Allen per Manhattan. Era questo il film della scorsa settimana che arriva in Blu-ray e che noi regaliamo ai due più veloci e bravi ascoltatori del sabato e della domenica, Dario Bonifaccio di Mozzo, provincia di Bergamo, e Arturo Paradiso, che nome, di Arconate, provincia di Milano. Riceveranno Manhattan di Woody Allen in Blu-ray, di cui parliamo col nostro Claudio Poffi. Ciao Claudio. Ciao Franco, un saluto agli ascoltatori. Allora, l'edizione alta definizione di questo capolavoro di Allen è di ottima qualità, resa nettamente superiore al DVD, con uno splendido bianco e nero, c'è un po' di rumore video, non più di tanto, audio DTS monofonico con l'originale doppiaggio italiano dell'epoca, monofonico anche in inglese, che guadagna qualcosa specie sulle musiche grazie alla codifica DTS ad alta risoluzione, e come extra abbiamo il trailer. E questo quindi per quanto riguarda l'uscita in Blu-ray di Manhattan. E invece andiamo alle novità, le novità in un video, cominciando con un film che esplora ancora dietro il mistero, se vogliamo, di William Shakespeare, si intitola Anonymous. Mi convocherà a corte. E mentre io sarò con lei, tu arriverai non coi soldati, non con le spade, ma coi suoi fedeli sudditi. I calderai, i ciabattini, i muratori di Londra, una vera folla, il popolo che chiede che Robert Cecil venga bandito dalla corte. Le parole prevarranno con Elizabeth, non le spade. L'Inghilterra puritana del 1600, con il regno di Elisabetta I che volge al tramonto, è una nazione in cui il teatro è considerato disdicevole e pericoloso per la satira politica. Mentre è in corso la lotta per la successione al trono, il 17° conte di Oxford, Edward de Vere, sfrutta le opere teatrali da lui scritte per screditare la famiglia Cecil, che ha eccessiva influenza sulla sovrana. Impossibilitato a uscire allo scoperto, la paternità delle rappresentazioni che entusiasmano il popolo e poi lo sobilleranno contro i Cecil è assunta in cambio di denaro da un mediocre attore e semianalfabeta William Shakespeare. Lontano dai blockbuster catastrofici, il regista Roland Emmerich si immerge più che può nell'ipotesi poco accreditata che vede il conte de Vere come autore degli scritti di William Shakespeare, anche se in affanno nel manipolare la materia ne risulta un political thriller in parte intrigante e maestoso nella messa in scena. La Sony Pictures Home Entertainment, l'uscita di DVD, ma soprattutto lo spettacolare Blu-ray di superba qualità video, tracce inglese e italiano entrambe DTS ad alta risoluzione, ci sono tanti extra, tra cui segnaliamo su tutti il commento per il film del regista e dello sceneggiatore, scene eliminate ed estese. È stato il film su quale l'Italia ha puntato molto, forse il film italiano più atteso della scorsa stagione, firmato da Paolo Sorrentino, parliamo di This Must Be the Place. E i disegni, quelli li hai guardati? Li ho guardati, ma non ci ho capito un cazzo. Ha disegnato tutto quello che gli poteva servire quando lo cercava. Quando lo cercava? Chi, Richard? Non ci ho parlato per 30 anni con mio padre. Non so assolutamente niente di lui. Da quando tu sei andato in Irlanda, non ha fatto altro che cercare Aloise Lange e suo carnefice ad Auschwitz. In lungo e largo per gli Stati Uniti. Celebre rockstar negli anni Ottanta, Cheyenne si è ritirato dalle scene, pare aver abbandonato per sempre la musica e vive nella lussuosa e vuota casa Dublino assieme alla moglie. Depresso, in preda ad ansia, torna negli Stati Uniti per recarsi alla capezzale del padre morente, giungendovi troppo tardi. Scoperto che l'anziano genitore ha dedicato la vita a scovare il suo aguzzino quando si trovava prigioniero in un campo di concentramento, decide di proseguirne la ricerca. Intenso film on the road, in cui il regista Sorrentino racconta l'America disincantata di oggi attraverso strade lastricate di variopinta umanità. La Medusa Film Home Entertainment, l'edizione è solo DVD, c'è una seconda edizione che include oltre a DVD la colonna sonora, ma soprattutto il Blu-ray, sono tutte edizioni di ottima qualità, ma come sempre consigliamo l'alta definizione per riscoprire la magnifica fotografia del film. Come extra c'è un'interessante intervista al regista, immagini da set e scene estese e tagliate, per tutte le edizioni è incluso un libro monografico su Sorrentino a cura del giornalista Francesco Ruggeri. Grazie Claudio, a risentirci la prossima settimana. Ciao, a presto. E allora noi abbiamo finito la nostra corsa, vi ricordo solo una cosa, che domani alle 15, domenica 25 marzo, anziché la replica della Rosa Purpura, andrà in onda una puntata speciale in diretta dal Vinitaly di Verona. Esploreremo tra l'altro ovviamente anche il rapporto fra la mitica bevanda e il cinema, quindi alle 15 domani ancora insieme, nuovamente insieme per una puntata straordinaria al Vinitaly. Grazie a Giorgio De Luca in redazione, a Peter Bescapè in regia, un saluto da Franco D'Assisti.